qualcuno qua? Prego. Io ho qui. Attenzione, canale 10, cambio. Ora c'è qualcuno qua? Attento, Marcolino Condo, ci sei? Attenzione, briciola, briciola! Attento, briciola, se ci sei, metti un colpo. Cosa? E cosa? La cacciata della posta. Ah, briciola! Brigido! Attento, Brigido, a ci sei? Fiorellino. CQ10. Ma è vero, sì. Vabbè, fantastico. E lei, Luca? Tutto a posto? Come dice? Questa mattina non sei più entrato. Sì che sono entrato. Voi sono andato in cucina a cucinare, non te lo ricordi? No, quando eri giù ho fatto a mola, non ti abbiamo più sentito poi. Perché me ne sono sceso dalla macchina, mi sono seduto al bar lì per prendere un po' di sole, che c'era, è uscito il sole nel mentre mi sono seduto lì, mi ha giovato a regà un caffè macchiato e una e mezza minerale. Mi sono seduto fuori dal bar e poi ho preso un po' di sole e poi sono, quando mi avete sentito voi, sono rientrato, capito? Eri con Giulio. Don Mitta sarà adesso. Di Giulio. Allora. Allora, gentilissima Emanuele, so che entra due novità più, deve essere chi ha studiato, non mi intendi, andò a Giugiamaddu. Quasi che da Brigido, da Zichendi. Ma Brigido è buona sembra di Bassoni, se non ti sei un uomo, la gente quanti vado a rispondere. Che sicuro è vero. Io in cucina ho sentito Brigido, mi sono venuto qua, però non mi ha risposto più. Vuol dire che non ero io quel Brigido lì. Infatti, quello è, tu appunto lo chiami, il muro ci chiamato, sai, quando ti ha chiamato Brigido, che vi ha chiamato, però e non mi ha risposto. Compreso Emanuele. Ma infatti già non l'ha più chiamato, bavisso, sì, non mi sbaglio. Perché non ero un vero, stavo chiamando, facendo cosa, e quando arrivare qua aveva chiuso evidentemente. Ma la cosa che ha fatto buono con me, così la giù riposo immediatamente e non mi ha riposo. Perché? Andà bene Meda. No, magari quasi due chiamate, chiudersi nada. Poi dice che alle 5, ieri mi ha detto che alle 6 deve essere di servizio, esce alle 5 da casa, perché fa tutta la notte fino alle 7 del mattino. Un altro per il travaglio, visto, mamma mia. Ehi, cappa, mi aspetta che sto, ci ho mandato la foto. E cosa stavi? Aerografando? Fare ora fanno un pezzo, stai installando il fondo, che lo devo cubicare. Che va. Che lavoro? Sta bene, Natalino. Ho la scritto sul nuovo, Canta. Ciao Giù, ero in radio con Natalino, se mancanza mezz'ora, 5-10, 5-10, c'è nessuno, se rispondi, e dopo il pari. Il pari due. vabbè, segnato, poi prendi il tricky track. Non lo so, non ci sono parole. Vabbè, Natali, a Bisese. Mica c'è quell'alternata giù. Ah sì, aspetta che stacco. Ecco qua. Ecco qua, stavo qua a caricare il tablet. Adesso già è carico. Guarda, guarda. E allora, cosa si dice stasera? Bella giornata, quello sì. Sì, di maestrale, domani non attesti. Sì, stavo guardando un film che c'era alla televisione con Charles Bronson. Io facendo qua me. Facendo, mi ha mandato una foto. Una foto? Vediamo se è bella. La bomboletta, non me l'hai mandata stamattina anche. Ah, stavo appunto aerografando poco fa. E i mutandi adesso. Ci siamo lì. Ha 86 anni, bubu. 26 metri quadrati. Ma quando vedete l'intendo vorreste viverci. Guarda, ti puoi mettere uno di questi che ti ho mandato, Giulio. Vabbè, lascia perdere l'ultima foto, quella non si può mettere. Ti ho mandato delle cose, beh, ti attacchi uno di quelli e si è a posto. Io ho risolto così. E sei poco pornografico. Accidenti. Chissà se si è dimenticato un pezzo, o la musica drugani. E allora, non voglio più stoffa, capito? Non so quanto, non so fatto di mudarli. Ah, ecco, la trappera se ne ha dimenticato, ah, ecco. No, la piscina, la mudanda non è uscita, non è battata la stoffa. Ha voluto ripegna, la giubaletta. Oppure uno via caglio. Ha detto fammi una pacchetta da 15 euro, chi dà 15 euro l'ha fatta. Non è possibile. Queste prese, sai dove ne hai tolte? Queste prese a tre cose, all'americana. Quelli sono quelli che ho, uno di quelli l'ho messo anch'io, ce l'avevo qua e l'ho collegato. E poi da lì, appunto io l'ho collegato alla presa principale, gli ho collegato un cavo, poi da lì, dall'uscita di quella va alle ciabatte che ho qua e non mi fa più né rientri, né ronzine, né le sticelle di ronzano né niente. Ma in questa presa perché? Cosa c'è? Qualche filtro c'è? Qualche cosa del genere? Esattamente, sono filtri quelli, capito? Guarda che se c'è qualche computer di vecchio stampo o un alimentatore, li trovi dentro quegli alimentatori dei computer. Ne ho due alimentatori io del computer, ne ho due. Sono tutti e due funzionanti. Infatti un giorno mi diverto, mi gioco e faccio un piccolo alimentatore proprio a 12 volt oppure anche a poche volt, 3,5. Ce ne ho anch'io qua, ma non ne valeva bene. Non ne valeva bene a Giulio, capito? Qua piuttosto con 15 euro prendi un 30 ampere di quelli switching come questi, lo stesso che ho io. Io ho il 100 ampere, il 50 ampere e vanno benissimo per fare cose di laboratorio così. Cappa. Infatti. Oh, che poi già ne ho mio, diventatore, già ne ho. C'è anche un altro di quelli che ci usavano una volta da 3 ampere. Per cui che poi per il baracchino va bene lo stesso, per i 2 watt a voglia 3 ampere è più che sufficiente. Sì, ma infatti. Sì, io ho 2-3 ne ho di quelli da computer. Sì. Ma li vendono anche già pronti, quei filtri lì. Guarda, su Amazon li trovi già pronti, senza bisogno di cose. Sono fenomenali. Ok. Vabbè. Poi ne ho anche uno o due a Sassari. Ne ho di alimentatore, ma sempre da 3 ampere, 3 ampere e mezzo, una cosa del genere. Che ne avevo portate perché quando avevo la radio in bottega lo usavo per l'autoradio, lo usavo ed è rimasto lì ed è sempre lì. E vabbè, comunque ormai i tempi che furono non tornano più. Sì, prima si attaccava lateralmente la sedia della macchina in casa con le casse e gli alimentatori. Sì, ne ho fatto. Tu pensa che avevo fatto un mobiletto e c'era l'autoradio, c'era dentro c'era l'alimentatore e più c'era anche il baracchino con il suo spioncino che si illuminava quando accendevo l'interruttore e dunque era bello, tutto bello, bello bello, fatto con la cadenza di un pianoforte, diciamo, dai. Mi guarda, siamo te l'ho mandato giù. Sì, è quando c'erano quei dadi profumati, ti ricordi quei dadi in plastica con tutti i buchi, dove dentro c'erano quelle palline profumate, si appendevano allo specchietto, io da lì mettevo i LED, compravo i LED di svariati colori, li collegavo tutti insieme, e i piedini positivo e negativo, collegavo tutto quanto, e poi gli ultimi due collegavo il positivo e il negativo delle casse, e quando la cassa suonava questi LED si illuminavano a intermittenza, per carità. Per quello io mi ricordo quando abitavo nell'altra casa sulla Grand Prix che avevo anche il LED, quando schiacciavo la portante si accendeva in punta l'antenna, si accendeva il LED. Cosa non si faceva? L'hai vista oggi quella foto? Sì, l'ho vista col filtro, è bello, sì. 10 ampere di potenza, è già sufficiente, a voglia. A voglia, quello lì, guarda, direttamente da Amazon, costa una cazzata, hai visto? Ne vanno benissimo quelli lì. Poi 10 ampere 220 volt, 230 volt, come oggi, a voglia, venne pensato di fare i buchi. Con quello, tranquillo che ti risolve i problemi. Io perlomeno li ho risolti, perché anche a me attaccavo il caricabatterie e ronzava, e qualsiasi cosa, il mixer ronzava, alla fine ce l'avevo in un alimentatore di computer, gli ho fatto i collegamenti, infatti attaccate alle prese c'ho sia il caricabatterie del telefono, gli altri alimentatori, le luci LED, e non ho più fatto ronzì. Certo, si è filtrato, vado bene, cosa costa? Adesivo, cosa può costare, una cosa del genere? E allora, 13 e qualcosa. Figurati. Non so, tante cose ci sono, esistono, ma se andare a retta tutto, una volta già mi divertivo, facevo tante di quelle cose che tu non hai idea, sapessi quante radio ho fatto e poi ho smontato, poi magari quei pezzi che montavo li utilizzavo per fare altre cose e così via, ma per anni, sempre copiando dalla CQ elettronica, da sperimentare, questi giornali così, no? Elettronica pratica, tutti questi giornalisti così che compravano, già ne ha preso un po' quelli di Nassi, mamma mia. Vabbè, però quello lì, vedi, per te che hai questo problema di quando attacchi così, non hai lì problema, ogni volta lo devi staccare, l'alimentatore o cosa è che ti fa questo problema. Vabbè, intanto una volta che carico il coso, il telefonino, lo posso anche staccare, cosa mi dà? Non mi fa. Intanto qui c'è la presa, ci ho messo un adattatore di quelli con l'interruttore e ci è attaccata questo carica a batterie, ci è attaccato e quando devo spegnere spengo direttamente da lì, spengo questa spina tripla, come te la vuoi chiamare, sì, una spina tripla, una, due, tre prese ci sono, una sciucco e due normali, bipolari. Però c'è anche l'interruttore, è attaccata la presa a quello, non devo staccare, prendo, stacco l'interruttore ed è a posto. Io ho anche attaccato, penso, il monitor del computer, che è anche quello a LED, eppure anche quello lì, il suo trasformatore, capito, quasi fa rientri, è un casino, e invece è tutto attaccato sempre, non ho più staccato niente. scherzi, proprio fanno stare chi vogliono voce, stacca il monitor, stacca il telefonino, stacca Guido, stacca le luci, ma soprattutto le luci che ce li ho comode qua per la sera. E come ti fai, se non ti devi pagare qualche cosa, se usi le luci ti faceva rientro, e allora così ho risolto del tutto e boh, tanto è sempre attaccato un viso alla brisa, sicché. Ah beh, se quello sì, se utilizzi anche le luci è utile, ma io le luci ce le ho normali, sì vabbè, le lampadine sono di quelle a LED e tutto quello che vuoi, però quando non sono attaccati alla presa, dove è attaccato alla radio, non succede niente. Questo ce l'ho perché ce l'ho sul comodino, questo alimentatore per caricare, perché la notte poi prima di coricarmi lo attacco sia il tablet che il telefonino e all'indomani è pronto, carico tutti e due, non c'è problema, lo faccio praticamente tutti i minuti questo lavoro. Magari durante la notte, siccome magari mi alzo per andare in bagno, c'è l'interruttore, con la presa stessa, tac, stacco, e si stacca anche l'alimentazione sia del baracchino, sia del telefonino e del tablet. Sì, anzi, io sono fortunato che, meno male che, siccome tu lo sai che io tutto l'impianto ce l'ho solare, no? Tutto l'impianto di luci è solare qua a casa. Sono fortunato che non mi fanno ronzì quelle lampadine lì, che io ce le ho in tutta, sono a 12 volt, lampadine attacco ai 27, ma 12 volt, 30 watt, e sono in tutte le camere, capito? Che sono fortunato che almeno quelle non ne fanno di questi rientri. Che era solo queste qua, la striscia LED, il monitor del computer, il coso del telefonino, e allora giù lo filtro, i givi, alla brese ho risolto lì. Ciao gara. Beh sì, quello già va bene, così già va bene, già lo grido. E vabbè, comunque, cosa dire? Bisogna, anche con la lampadina LED bisogna che l'impianto sia fatto bene, nel senso che la fase va sempre all'interruttore, perché se no poi ti lampeggiano queste lampadine LED, per cui bisogna che quando, vabbè, oggi si fanno così, i collegamenti, la fase va sempre all'interruttore, non mai alla lampada. Se la fai alla lampada poi si mette la lampadina LED e quelli sfarfallano quando spegni l'interruttore e la lampadina rimane sempre sfarfallando. Sì, no, questo non te l'ho detto, non ho ancora cambiato una da quando ho l'impianto. Da quando ho l'impianto solare non ne ho cambiato mai una di queste lampadine. Boh, eterne so. Vabbè, le ho comprate in Cina, perché qua non ce n'è di queste lampadine attacco ai 27 con svariate potenze, diciamo così, perché c'è da 20 e da 30 watt. Io le ho prese sia da 20 che da 30, perché in base alla plafoniera che avevo quella da 30 non ci stava, capito? Allora giù su due da 20 e invece che due da 30, perché cambia la dimensione. Adesso ti mando la foto di quella da 20. Ho capito. Sì. No, io addirittura ho messo delle lampadine da 19 watt che sviluppano 150 watt di incandescenza, sempre a LED, no? Luce bianca, luce fredda, 6500 Kelvin, per cui 2500 e oltre lumini, insomma, e illuminano molto bene, luce bianca, a me piace così, luce bianca. Se penso ad esempio nella sala, che ne ho 4 di faretti così, se vuoi immaginare, dunque a 19 watt l'una, ma quando ne accendi una è già più che sufficiente, massimo 2 quando c'è ancora più luce ed è più che sufficiente, ma la sala mia è grande, guarda che 7 metri per 7 metri non è meno ridano, e dunque illumina abbastanza. Sì, no, fanno un sacco di luce, questa è la stessa luce bianca, fanno un saccaccio di luce, ma guarda quella lì è da 20 watt, quella che ti ho mandato la foto, mentre quella da 30 watt è molto più grande. Guarda, ti ho mandato anche la foto di come è fatta la lampadina. Lascia perdere che questa c'ha il coso, il pezzo di sopra rotto, che l'avevo smontata perché appunto mi serviva la parabola sopra. Vedi com'è fatta la lampadina. Sì, sì. Ma ci sono tanti vetri dentro allora. Non è una lampadina unica. Praticamente è una lampadina composta da tantissime vetri. Sì, vedi quella, aspetta, ti sto mandando anche la foto di quella da 30 watt. Vedi quella, c'è la piastra e poi c'è la cosa in alluminio che fa da dissipatore, capito? Poi c'è la parabola esterna in plastica, che è quella dove c'è l'attacco per avvitare al lampadario, come una classica lampadina, e poi c'è la sua boccia, c'è anche la sua boccia esterna naturalmente per fare la cosa, da illuminatore, diciamo così, per convogliare la luce, no? Adesso ti mando la foto di quella da 30 watt. Ok, e l'attacco è 27, quello lì, l'attacco Edison, si chiama, una volta la chiamavano così, oggi la chiamano l'attacco E27. Sì, già lo conosco bene. Prima si chiamava attacco Edison, poi c'era attacco Migno, c'era micro Migno e così via. Comunque, poi c'è tutto giambato, tutto ben di burro italiano, se c'è ben di. Guarda, quella da 30 watt, ma tu devi vedere le luci che fanno, la luce che fanno queste lampadine qua, fanno un saccaccio di luce, sono 12 volt perché l'impianto mio è a 12 volt, ma fanno un sacco di luci. Sì, sì, e beh, le fanno un sacco di luce, già lo so, sì, sono luci ad alta definizione, tra l'altro, sono molto, molto interessanti. Poi anche i televisori sono così, tutto attorno al quadro della televisione, c'è una illuminazione totale per tutto il perimetro del televisore all'interno, però se si ne brucia una si chiude il televisore, perché sono tutti quanti fatti in serie, credo, capito? Ed è per quello che oggi i televisori sono ben illuminati, proprio di lusso. E infatti i televisori sono 60 watt, non è che abbiano chissà che quanta, proprio i televisori non consumano un granché, come queste lampadine eccetera eccetera, e quello che consuma sono lavatrice, frigorifero, pozzetto, di che cose, e da lì non si, da lì purtroppo non puoi scappare, quei motori, anche se hanno fatto classe A, classe A più eccetera eccetera, sempre consumano, no? Venuto dai va. La voglia si consumano. Sì, quello sì, è vero, il televisore non è che sia questo grande consumo, ma nemmeno il frigorifero, non molto, ma anche quello, perlomeno i frigoriferi di oggi, se poi sono i frigoriferi di allora, era intorno ai 300 watt, erano, quando facevo io l'elettricista era intorno ai 300 watt il consumo, la lavatrice poi non se ne va via, 1500 watt, 1700, lo scaldabagno lo stesso. Il ferro da stiro, la voglia, il ferro da stiro anche 2000 watt, si dipendeva dal tipo del ferro da stiro, l'asciugacapelli lo stesso, quello è molto, molto di consumo, naturalmente a seconda della velocità che metti, perché se lo metti al massimo l'asciugacapelli siamo intorno a 1200-1300 watt, come lo scaldabagno in pratica. Infatti fanno bene chi si fa gli impianti solari, appunto, fanno molto molto bene. Io ho fatto così e mi va non bene di più. Le pannelli se vanno benissimo. Sì che vanno bene, come no, altro che se vanno bene, allo grillo, alla grande. Sì, comunque, nonostante tutto, la bolletta che è sempre un beata, molto alta. Perché l'ultima bolletta che ho pagato 286 l'ultima bolletta, e più ho pagato la bolletta di Sassari e ho superato abbondantemente i 300 fischia, insomma intorno ai 350, poi poi la prima ancora che avevo parlato, perché avevo cambiato su Energy, no? Avevo cambiato Enel Energy, e la prima bolletta che mi è arrivata era arrivata 407, una cosa del genere. Poi invece la seconda è diventata 286. Ah no, l'ultimissima, no, stavo sbagliando, l'ultimissima è arrivata 308, ma deve considerare che c'era anche la stufa pellet in quel caso lì. No, io stufa pellet oggi brucio l'altro di quel riscaldamento. I mudandi, sai, l'altro che stufa pellet. Sai, come è l'energia è nel normale, boh, intanto l'asso di brumitini, e da voi i primi mesi e da voi di graccani. Cosa tutto, mamma aveva provato sorgini, cosa tutto non aveva provato, io avevo giubilato, sono cazzato dall'Enel e l'ha giocato direttamente il contratto con Enel, intanto. Sì, quello sì, no, io ho fatto tramite, cioè io, ho fatto fare mia figlia tramite computer, no? Il contratto, perché intanto anche se tu non lo fai, e loro poi in automatico decidono loro a chi dare la tua fornitura ad una gestione che dicono loro, che pensano loro, no? Che magari è sempre Enel, però diverse voci, sotto diverse voci, tanto è vero, quella di Sassari, non bisogna andare a fare il cambio, me l'hanno fatto loro, sempre su diversa gestione, capito? Infatti mi è arrivata anche la bolletta di fine contratto, e che loro in automatico la davano ad un'altra azienda, ad un'altra cosa, no? Ad un altro fornitore. Poi però la bolletta mi arriva sempre tramite online, la pago sempre tramite computer io la bolletta. Ma intanto è sempre Enel, la principale è sempre Enel, poi da, diciamo, in subappalto, diciamo così, agli altri, a Sorgeni, a tutte le altre, ma la casa madre è sempre Enel, capito? Non si scappa, perché tanto poi ti abbassano uno e ti aumentano un'altra bolletta per farti vedere, capito? Perché anche loro devono rientrare con Enel poi. Certo, infatti è sempre Enel, la fonte è sempre Enel, non ci sfugge. È un po' come il telefono stesso, Michele. La fonte è sempre TIM, e poi TIM magari dà varie gestioni, fa piazzare tante piattaforme, fa piazzare, però il telefono è sempre TIM. Ma io, infatti, qui alle volte il telefono è una tragedia, ma cari dai, ogni tanto si blocca. Chiami i team e nel giro di 24 ore vengono e te lo riparano. Se invece ti affidi ad un'altra società, magari, questo me l'ha detto uno che lavora lì, guarda, non cambiare, perché intanto è inutile, magari potresti avere anche problemi per riparare, ma non perché non te lo riparano, però magari arrivano dopo quei 10 giorni a ripararlo. Ecco come, infatti, siamo rimasti team e basta. No, io sono Iliad, mi trovo benissimo, ogni mese pago sempre e solo quello, prima invece con Vodafone, un mese era uno, un mese era l'altro, la da Giugnani, perché hai passato il giorno di ritardo per caricare e ti aggiungevano, con Iliad invece questi problemi non ce li ho, mia moglie ce l'ha anni, Iliad, non ci abbiamo cosa, DSL non ne ho più messo, l'ho tolta, c'avevo Tiscali, e l'ho tolta perché non la usiamo mai, ormai tutti col cellulare, il computer lo stesso, se devo usare il computer lo uso col cellulare, metto il router tramite il cellulare e faccio le cose, le stesse identiche cose, non è che ho un ufficio a casa per poter avere la fibra e usare quella, capito? Per quello che devo fare, qualche registrazione col computer o qualcosa col computer, metto dal telefonino, bongo lugoso e uso il telefonino come router, capito? Sì, quello sì. Sì, ma io sto parlando appunto di telefono fisso a casa con la DSL, ma io tengo quello perché ci lavora mia figlia col computer tutto il santo giorno, e dunque ci vuole una certa garanzia che funzioni sempre, se no quella, se non funzionasse ad esempio, come mi ha detto quell'amico che lavorava, che tra l'altro era anche un dirigente della Telecom, che poi adesso è diventato TIM di nuovo, e dice, prendi il lavoro, magari stai 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, a secondo di quanto tempo ci impiegano per venire a riparare, e allora la cosa comincia a essere un po' tragica. Sì, vabbè, il telefonino ce l'abbiamo lo stesso, c'è anche internet sul telefonino, io ne aggiungo due numeri, no uno, due in aggio, uno è Vodafone e uno è Iliad, e Iliad mi funziona benissimo, Vodafone ce l'ho a consumo, cioè a scheda che consuma, mentre invece Iliad posso stare 24 ore su 24 attaccato al telefono, la cifra è sempre quella, 7,90 euro, sì, al mese, c'è compreso anche internet, per cui va bene così. Oh, beh, se ti serve, se lo usi tutti i giorni conviene, sì, quello sì, ma io non è che lo uso tutti i giorni il computer, quando c'è da rinnovare i documenti e tutte le cose, boh, poi magari fare qualche ricerca, se no anche per stampare uso il cellulare. No, mia figlia lo usa per lavorare, qui che lavora qui a casa, no? Per cui il computer le serve, e lei lavora per tutta la Sardegna, devo immaginare se non c'è il computer come fai, no? No, non è possibile. Che poi tra l'altro attaccata ad esempio il tablet io ce l'ho, ed era anche telefono il tablet che ho io, il tablet di mia moglie, il tablet di mia figlia, tutti quanti ne avevamo di tablet, e sono tutti quanti collegati alla linea di casa, praticamente io col tablet posso usarlo come WhatsApp, lo posso usare in tutte le maniere, lo posso usare all'infuori del telefono perché non c'è scheda nel tablet, però lo stesso, il telefonino lo stesso, io quando uso WhatsApp magari mi aggancio alla linea di casa, capito? È tutto interfacciato con la linea di casa, però paghiamo 40, 44 mi sembra ogni mese di bolletta, a differenza che magari su Tiscali pagano 24 euro, perlomeno so che è così. Io pago 9 euro per il cellulare, 9 euro. Non mi avevi detto, o sbaglio, boh, mi avevi detto che la falegnameria la dovevi adibire a ufficio per tua figlia, o no? Boh, forse mi sto confondendo. Sì, infatti è così, c'è l'ufficio di mia figlia lì, però la utilizza solo quando deve fare delle riunioni di lavoro, eccetera, per non portare la gente qua, capito? Però principalmente lavora qua, dalla mattina alla sera lavora qua. Lì quando è necessario fare delle riunioni, conversazioni, preventivazione di lavoro, eccetera, tutte queste cose qua, allora l'appuntamento lo dà in ufficio, capito? Se no me ne va il gatto tra la gente ai nomi, non va bene, allora qui sta meglio, anche perché soprattutto l'inverno, non dove il riscaldamento, non dove tutto, invece lì a Sassari, sì, c'è una bella stufa anche a Sassari, potrebbe utilizzare quella, ma tu pensa che c'è anche il telefono e non ho fatto mai una telefonata, mai, lo utilizza solamente quando lavora col computer a Sassari, perché ci vuole sempre la linea telefonica per il computer, però non è stato mai utilizzato per fare una telefonata quella linea lì, ti puoi immaginare? Ecco, allora già l'ho capito bene. Sì, e beh certo, è così, infatti è così, io quando riuscirò, io il locale l'avevo tramezzato, no? Avevo fatto un tramezzo a blocchetti da 10 o da 12, quanto sono, boh, forse da 10, tutti a blocchetti, per metà e metà l'ho fatto, all'interno ho fatto tutto, c'è anche il bagno, c'è anche la doccia, è tutto, solo che all'interno ci sono le macchine mie, ci sono, però c'è una porta scorrevole, ho fatto una porta scorrevole, la parte lì davanti ci sono in alto, ci sono due finestre a vetro, ci sono, e più c'è la porta scorrevole. Tu chiudi e le macchine non le vedi più. Infatti è per quello che voglio io lo studio delle macchine, per poter poi fare tutto a ufficio, tutto, anche la parte di dietro, capito? Ecco, sì. Me lo ricordo che era grande. Non era larghissimo, cos'è? 3,5 metri, cos'era di larghezza? 4 metri. È così. Diciamo che è lungo 10 metri per 4, diciamo, 40 metri quadri, insomma, dai, siamo lì. Sì. Gli altri, quel negozio di cosa? Chiuso aveva fuori, quel negozio di animali? Sì, ha chiuso, saranno già quasi un anno, ha chiuso, non c'è più, è chiuso proprio, con la saranno abbassata già da un anno e più. Sì, no, è entrato a fare il manutentore in ospedale con una ditta appaltatrice che fa i lavori in ospedale, e lui fa il manutentore, un po' di tutto, dai. E si è procurato quel lavoro e ha chiuso il negozio di animali, ha chiuso, per cui va bene, dice che gli conviene così. Beh, in effetti, se pagava 650 euro solo d'affitto, pagava, tu a me, pensa, a me me l'hanno offerto, addirittura se ce lo vendevo il magazzino, ma in effetti mi avevano offerto 50.000 euro, mi avevano offerto per il magazzino, ma se no, mi occorre a me, non te lo posso vendere. Oppure affittamelo allora, dai, ti do 300-350 euro al mese, bene ti va, magari il primo anno dice 300, poi no, l'hai preso che mi serve a me, se no te l'ha predato, capito? E no, infatti c'è l'altro che è a fianco e gli ha affittato 300 euro al mese e abitano, e ti dico come è successo. Era una ragazza e un ragazzo che si sono messi insieme, sono stati insieme, fidanzati per anni, adesso lui vive nel magazzino e lei vive invece nell'appartamento dove abitava la madre, abitava. E allora si sono separati, sono divisi, non sono più insieme, e lui le dà 300 euro al mese per questo magazzino, ma diciamo che lo sta tenendo come da barbone, bacare dai. Cosa ci vuoi fare? È andata così. Ti ricordi dove c'era il negozio di generi alimentari a fianco a me? Sì. È in quello lì, in quel locale lì. C'è questo tipo adesso che si è lasciato da fidanzato con questa ragazza, si è lasciato e lui, siccome non sapeva dove andare, e allora ha detto vabbè, ti pago l'affitto, e dice che le paga 300 euro al mese a questa ragazza. A lì le fanno anche comodo, tanto più che fa piccoli lavoretti, poi ormai è sola, non ha più fratelli, non ha più niente, è sola, proprio sola, a questo appartamento lì nel palazzo dei ferrovie di via Lateroce, dove c'è il treno, lì vicino, abita lì, e ce ne è ritornata lì, perché era una ragazza che purtroppo lì in quell'appartamento ci abitava il fratello, che poi avevano qualche anno fa, l'avevano trovato morto lì a casa sua. Non lo so che. No, ma poi affittare oggi non conviene, secondo me, non conviene a chi non sai, soprattutto se affitti in nero, o anche a contratto, magari a voi come anni questo mese non ce la faccio, aspetta un po', e qui e là, tanto vale vendi, se c'è un'offerta di vendita, tanto vale vendere, caspita, ti hanno offerto anche una bella cifra. Sì, mi avevano offerto una bella cifra, sì, ma siccome se viva a me, a mia figlia, là, non a me, a mia figlia, intanto quando me lo vendevo, poi si avrebbe dovuto cercare un magazzino lì, o paghi l'affitto o te lo devi comprarsi, che tanto vale, c'era già il magazzino, tieni quello e basta, no? Quello è vero, infatti. Per cui no, non è che potevo fare diversamente, no? E se fosse stato per me sarei stato ancora lavorando. Beh, dopo mi hanno praticamente costretto qui a casa, ho detto ma chi te lo fa fare, basta dai, rimanere a casa, ormai hai lavorato, non è che ho lavorato 62 anni io, non un giorno, 62 anni ho lavorato, sì, che ti puoi immaginare. Oh Luca, avevano anche ragione, mi sono curato a tenere la banza, mi sono curato a tenere a casa. Ma vero, io sono sicuro che se tu abitavi qua, comunque, eri abituato ad andare al solito bar a farti la tua chiacchiera, il giornale, la colazione. Io sono sicuro che avresti avuto più modo di magari di uscirtene la mattina, andare al solito bar, solito colazione, giornale, passare quel tempo lì come, che tra, come tutto il tempo che hai trascorso qua, quando, quando venivi a Sassari, che andavi al solito posto, quattro chiacchiere, eccetera, eccetera. Magari qua ti sarebbe venuto più comodo, diciamo, dai. Non che non ti venga comodo, che pigli la macchina comunque, però pigli la macchina, sta su Sassari, ogni 80 lì, insomma, anche una rottura sul bando a pigliarsi un caffè. Insomma, io lo facevo prima che ci fosse la pandemia del Covid, la mia abitudine era quella, tutti i santissimi giorni salivo tranquillamente, incontravo gli amici, eccetera, Natalino non sa che cosa, incontravo sempre, molto spesso Natalino, anche nel solito bar, ma al Moccalo lì, oppure lì da Ravino, via Pascoli, insomma, colazione, caffè, una chiacchierata e così via, e passava la mattinata, passava. Da quando è successo il Covid, tutto sarrado. Sì, ma sa con lo stesso, non è che lo so, anzi adesso diciamo che a fare la colazione sto andando al città mercato, che oggi tra l'altro è Conad, non è più città mercato, ma lo sto facendo lì, mi incontro lì con qualche amico e la colazione la faccio lì anche, non è che non tutti i giorni, ma molto spesso. D'accordo, ti sto dicendo, magari abitando qua a Sassari, una passeggiata a piedi, se abitavi in zona, e via Pasqua, via vicino, e tutte le mattine avresti avuto il tempo da passare, diciamo, non è che ogni dì devi pigliare la macchina, stassi via Pasqua, li pigliare un caffè, ti goccia ogni buccia. Invece in quella maniera, però, già risolto comunque. Vabbè, se per quello avrei potuto fare lo scambio quando era il momento, adesso magari no, potevo andare in un altro appartamento di Sassari, potevo andare e lasciare questo, e magari affittare questo e prendermi l'altro. Invece abbiamo preferito che questo qui era indipendente, no, non è nulla, non c'è condominio, non c'è niente, perché sono singolo, per cui va bene così. Devo dire che ci sto anche meglio, no, non è un problema. Ah, io sono fatto di prendere la macchina, non è che mi interessava niente, guardato, sono 5 km da qui a Sassari, 5 km e 500 metri, una cosa del genere, per cui non era quello che mi preoccupava. Oh, figurati. Da quando era successo il Covid, e ancora oggi, tu pensa, tu, quando vado nel negozio sono uno di quelli che ancora mette la mascherina, a differenza di tutti gli altri che non la mette più nessuno, però bisogna fare molta attenzione perché il Covid non è finito ancora. Già mi so che cos'è io, futtidini, di chi so che mi ha fatto a me, e infatti sono pubblicizzando avanti la televisione di vecchi anni niedi, ma già siamo in causa, non ti preoccupare. No, vabbè, c'è gente che non se ne ha fatto e sta benissimo, c'è un cugino io stesso che mi ha detto ma io non me ne ho fatto, no me ne sono fatto, e gli ho detto alla fine hai fatto bene, alla fine hai fatto bene perché stanno succedendo molte cose a chi se l'ha fatto, e un bel di musci pure ancora, nonostante c'hanno il vaccino, è quello che è successo a me. Così che, guarda, io perché sono stato obbligato dal diabetologa, dal medico di famiglia, se no, ma che mi sentivo da farne io. Io ho fatto 3 dosi, la quarta non l'ho mai fatta, e ormai non ne posso più, però devo dire, grazie a Dio, no, per quanto riguarda gli effetti collaterali del vaccino, non ho avuto niente, la verità. Vabbè, ho avuto altri problemi seri, sì, che grazie a Dio sono riuscendo ad eliminarli, anche se ancora sono sempre sotto controllo. Adesso devo andare a luglio, ho già l'appuntamento, penso un poco, mi sono già preso l'appuntamento tramite il computer, il giorno 6 luglio devo andare a fare un'altra visita di controllo, che è una visita che devo fare ogni 6 mesi, devo fare quella, e poi un'altra la devo fare ogni anno, ma ripeto, non so per quanto tempo ancora che devo controllare da voi, vabbè, ci sono poi problemi pregressi, già lo sai, noi, quello, problemi facciali, eccetera, ma quelli sono problemi pregressi, ma gente, è andata così, la volontà del destino e di Dio è stata quella, ma gente, quella vuoi va. Sì, vediamo se vuole entrare qualcuno, dai, che magari stanno aspettando il turno. Dai, sono in ascolto, Giulio, sai che voglio entrare qualcuno. Sì, avrebbero fatto break, c'è qualcuno che vuole entrare? Sì, no, non c'è nessuno, la sera ormai non c'è più nessuno, qualcuno poi sul 23 magari più tardi entrerà, ma non... difficilmente entro, che poi già lo sai, mi sto stancando, non sto più entrando come una volta, non mi interessa, non me la fottuto più niente, quando è possibile due chiacchiere, 10 minuti, un quarto d'ora, anche mezz'ora se è possibile, se no pazienza, chi se ne frega, non me la fottuto più nulla di nulla. La registrazione non è uscita. C'è qualcuno qua? CQ10? Ma... CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Ma come pensano per vedere l'erità? Valga l'occhio, valga l'occhio. Lumare che è asciutto. Valga l'occhio. Ma nessuno, boh. E solo tu stai io. No. Valga l'occhio, valga l'occhio. Chi è avanti? Ciucucciù. Avanti sul 10. Ola, ola. Ola. Più lenta al mondo è dovuta... Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ10, ho la CQ10, accosta, tutti fuggiti. Ho sentito che... Francesco? Chi c'è sul 10? CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Hola, attenzione canale 10. Hola, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, prego. Dica. Con chi abbiamo l'onore di parlare? Oh, io non mi riconosci più. Non ti amo più. Ah, ma con Condor. Fammi caro caro. Buonasera, buonasera, buonasera. Stavo spazzolando, c'era la gente sul 23, sul 22. E poi ho pigiato qua, ho sentito te. Io ho fatto una spesuccia in moto, non tanto impegnativa, perché domani poi, vabbè, già sono aperti i market, però domani è ufficialmente festa, me ne sto imbaricato a casa, oppure in campagna al limite. E cosa ti volevo dire? Niente, sono tornato a casa, stavo per fare il caffè, per me e per mamma, come sempre. E che te lo dico, ma qua non c'era nessuno Gianni? No, non attivo, io ho acceso e non c'era nessuno, infatti è tutta la sera, non è entrata un'anima viva. Allora ho cucinato la pasta a taglio, gli ho dato da mangiare, si è sbaffato tutto, non ha lasciato manco un pezzettino di roba, niente. Pasta, carne, crocchette, tutto quanto si è mangiato. Sì, c'era qualcun altro? Mi è sembrato di sentire un segnale sotto. Sì, c'ero io, ma Gianni è veloce e quindi mi sovramodula sempre. Se Curumari, stasera non è entrato nessuno. Ciao Natali, niente da fare con la storia, no? Negativo ancora. Si è rotto il preamplificatore microfonico e più sta partendo il modulatore. Ma una cosa così fortuita, boh, contando che quello non è aperto di modulazione, c'è la modulazione da omologato. Boh. Natali, qua bisogna andare davvero a Lourdes. Io chiedo la grazia, tu lo stesso, poi se vuoi venire anche Gianni, che mi sa che qua sono periodi bui, K. cosa volevo dire, sul 22 c'era Teodoro Ginito, l'ho sentito dopo tanto, era saturissimo, però stava parlando con qualcuno di veramente lontano, non ho capito chi, infatti, a meno che non sia tipo Isola Rossa, quelli che riesce a contattare lui. No, Isola Rossa la prendo anch'io, no, io non lo sentivo solo a lui, ma ci ha messo 3 ore per farmi entrare, quindi ho poi girato canale, devo stare 3 ore in basista a farla con lui e basta, ho fatto un break, l'ha sentito e non mi ha fatto entrare. Sì, magari sai, preso dal discorso ti passa di mente anche chi ha breccato, ora me la fa anche a me, quella mia memoria ormai è tutta a rotoli, sta andando. E quindi ho notato che molti hanno fatto ponte, per esempio le edicole che aprivano la sera non hanno aperto, alcuni caffè che di solito aprono, non di solito, aprono sempre di sera nei giorni feriali, hanno fatto ponte, e insomma un bel di gente si sta preparando per creparsi domani, capito? E anche il caffè era chiuso stamattina, sono andato al caffè, era chiuso, e fanno ponte, capito? Sì, adesso è come le scuole, i posti di lavoro sono come le scuole adesso. Ma tali riprendi là. E magari è successo perché il microfono è forte, non lo so, è andata male là. So solo che mi si è crepato e mi dispiace un casino. Niente di irreparabile però, sono abbastanza recenti quelli, cioè non è il 3009 di 30 anni fa, di 35 anni fa, questo è il 3009 fino a pochi anni fa, uscito di produzione da poco, quindi non credo che avrei difficoltà, certo dovrei un po' su internet cercare il ricambio giusto, i valori giusti, proprio la sigla, quello che è, insomma, dai. Tanto dovrebbe essere un finale, finale modulazione per caso, tu intendi come modulatore? C'è il modulatore, il preamplificatore microfonico, mette la portante, però i finali non hanno niente, però Radio Nisba, c'è il modulatore che manda ancora il bip, perché quando parte il tutto manco il bip esce. Via. Va bene, signori, io faccio questo caffè decaffeinato, come da tradizione, e poi forse ci sentiamo dopo, dai, forse. Nel caso ritenetevi super salutati. Vai Gianni. Trattenete un altro po', alle 7:30 vado anch'io. È un plumino. Vabbè, devo mettere anche un altro mercato, perché qua con mamma così è questione di tutti i giorni a fare la lavatrice. Ecco perché la bolletta anche esce salata. Tu fai i bucati pieni, non fare, non per 2 cose che le lavo. Fai un bucato intero. Pieni sono, pieni, altro che. Vabbè, allora ci vuole, che cosa devi fare? L'interessante è che l'attacchi dopo le 8, così consuma di meno. Sì, guarda, se dovevo al limite lavare roba non sporca, cioè non proprio sporca, noi praticamente non è che ti sporchi mai. Posso capire uno che fa il meccanico, che torna con la tuta fatta di grasso, eccetera, no? Ma praticamente i vestiti e le lenzuola le laviamo per togliere l'odore di corpo umano, di utilizzato, però in realtà è sempre roba non lorda di terra, di fango, capito già? Quello è il senso che volevo dire. Infatti certe cose che sono appena usate, io le lavo anche a freddo, l'importante è che ci sia il sapone. L'interessante è dare una rinfrescata, là. Così faccio anche io, là. Io faccio la lavatrice piena, vabbè, io sono da solo e quando è bella piena faccio il bucato, lo faccio sempre dopo le 8 oppure il sabato e la domenica. Via. Vabbè, quindi domani sarà tutto chiuso, è come una domenica. Poi il 1° marzo, lo stesso è in rosso sul calendario, è festa, cosa festa è lavoro, no? Il 1° marzo. Maggio. Scusa già, maggio volevo dire. Sì, la festa del lavoro è. Sì, la festa mia è. KK. Ma senza far nulla ti annui. Quando lavori c'è la giornata impegnata, ma... Invece quando non c'è nulla da fare è brutto. Io bene o male mi sbrigo le cose negli uffici, vado, faccio, porto il cane, mi vado a fare un giro a Platta Brava col cane, qualche cosa la faccio sempre. Ma cosa è, signorino, sei tornato già? Sì. 9 euro di rabbia la ribassai. ce l'ho detto, adesso dobbiamo fare il carico di polacche, ungheresi, ucraine anche, vista la, le, i cosi sociali. KK, meglio, ovvio, sì è vero, dai. Quando poi non vai più d'accordo è inutile che stai insieme a una persona. L'unica cosa è ognuno prende la sua strada, cioè va a finire che dopo ti vuole rimanere in atto. Bisogna trovare quella giusta, ma purtroppo certe volte uno magari in tutta la vita non la trova giusta. Cappa, vabbè, stacco, la che mamma pretende il caffè, reclama il caffè, a dopo. Cammina, fai su caffè, però se no ti metto la multa, amica, lo sai. Oh, già. Che cosa ti volevo dire? Giusta non è mai, sono rompicoglioni e basta le donne, lo sai, no? Tu devi fare la tecnica che usavo io, gradita ospite, che te, canto di micracchi, una parte di bella culo e via. Sotto avanti l'altra, da bui. Matta lì. No, io non sono così, io avevo tutte le buone intenzioni, però visto che non andava la storia, non è inutile stare insieme, sono mandato a via. Hai fatto bene, tanto passa Brienne e cosa, non andava. Vogliono sempre comandare queste donne, sempre comandare, paghi su a comandarsi, non andare in un disegno. Ma quello adesso che lo sai, quando vuoi farti un giro, andiamo e ci facciamo un giretto. Io stamattina ero a Placamona per prendere un po' di sole per quelle gocce che sto pigliandomi. E prima ho fatto delle commissioni con la 50 e poi me ne sono sceso lì a vedere se c'era Bruno. E mi sono seduto al bar lì, ho preso un caffè macchiato, mezza minerale e tira campà. C'avevo anche il baracchino, infatti alla tornata stavo parlando con Luca e con Giulio, invece all'andata stavo parlando con Gianfranco. Scusa, ti ho messo l'antenna di nuovo? Io ce l'ho sempre l'antenna, ce l'ho dietro il cofano, quando la voglio mettere la tiro fuori dal cofano, tac, l'attacco e parto. Tanto il cavo è già dentro, già tutto bello.